Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. La terza parte di Eclettica, quella in cui vi avevo promesso avrei svelato il mistero dell'incipit seriale di questa settimana. Ricordate, la scorsa io vi trasmisi Broken By dei Giardini di Miro, dall'album nuovo Dividing Opinions, con sottotitolo Now the Blood is on Your Hands, album nuovo che esce per Home Sleep. E avevo sottolineato la bellezza della copertina, delle foto sì crude ma ben rese graficamente, e avevo fatto capire come io non sapessi nulla di quei fatti citati come scontri di Reggio Emilia del 1° luglio 1960. Mi ero ripromesso, dichiarandolo anche in onda, di andare a cercare informazioni per poi raccontarveli, ma non l'ho fatto perché non ne ho avuto bisogno. Sono stato preceduto da due ascoltatori, rispettivamente Beppe da Genova e Antonio, che penso scriva proprio dall'Emilia, che mi hanno raccontato appunto di quel periodo storico della fine anni 50, inizio anni 60 dell'Italia, in cui salì al governo Tambroni, ottenne la fiducia lui DC anche dal MSI, e questo provocò una sommossa popolare che a Reggio Emilia ottenne degli effetti dirompenti, in quanto la polizia caricò, sparò e uccise. Ci furono 5 morti a Reggio Emilia. Poi a Genova ci fu il culmine di questa sommossa che portò anche alla caduta del governo Tambroni. E Paolo Nori, che ha scritto Noi la farem vendetta, è l'autore che io vi sto leggendo come incipit seriale di questa settimana, è appena uscito con questo suo libro da pochi mesi, che è proprio dedicato ai fatti di Reggio Emilia del 1960. Tratta proprio di quell'episodio che è ritratto nella copertina dei Giardini di Miro. Quindi ora dovremmo essere più o meno allineati su che cos'è questa storia dell'Italia del 1960, e quindi magari riuscire a cogliere degli aspetti del testo dei Giardini di Miro che prima magari non eravamo in grado di cogliere. Quindi stiamo per dedicarci all'ascolto di questo brano, ma prima ovviamente la parola va a Paolo Nori. Quando ero piccolo io mi ero convinto di essere uno di quelli che portano le ali da stampico. Mi ero convinto che quelle scarpe lì, bianche e rosse, avessero qualcosa che proprio aveva a che fare con me, con la mia identità. E quando le vedevo in giro addosso a qualcun altro mi sembrava come se incontravo un parente. Un giornalista ha scritto in un libro che il pezzo di terra che si chiama Emilia, oggi che il rosso delle bandiere comuniste è impallidito, può essere considerato tutt'al più un'infrastruttura tirata su da Dio in persona per consentire agli uomini di creare la Ferrari. Questo era ancora l'incipit di Noi la faremo vendetta di Paolo Nori. Is there any kind of Frodo and Sam? E dopo i già annunciati Giardini di Miro, siamo ritornati in Giappone dalle parti di Stormy Nights, il disco per la Drag City inciso dai Ghost, da cui ci stiamo ascoltando da qualche settimana questa parte qua in Eclettica, il brano dal titolo Caledonia. Vi ricordo le date dei concerti che potete andare a vedere gratuitamente grazie ad Eclettica. Beh, il 6 di febbraio alla Casa 139 di Milano sarà la volta di Micah P. Hinson. Poi, per quanto riguarda invece i Giardini di Miro, andata ormai la data di Torino, rimangono quelle del Rainbow a Milano il 16 di febbraio e il 17 all'Auditorium Flog di Firenze. E a proposito di Firenze, ascoltiamoci proprio una nuova band che proviene da quella città, nuova in quanto produzione discografica, anche se esistono da qualche anno, produzione discografica che hanno realizzato con l'aiuto in termini di produzione artistica di Paolo Benvenu. Loro si chiamano Muriel e questa è Stagioni. The fabled lands of Sunday Handy. Thank you. E in chiusura della terza parte di Eclettica ci siamo riascoltati Vanessa Van Basten da Genova. Mi hanno anche scritto dopo aver stabilito il contatto via MySpace dicendomi che questo brano si pronuncia all'italiana, è Dole. Eclettica, fine della terza parte.